TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Garanzie di tutela legale per i volontari della protezione civile e per i sindaci sono quanto mai urgenti. Questo è il richiamo dell'assessore regionale alla protezione civile Riccardi agli stati generali del corpo dei volontari. L'Istituto Nazionale di Oceanografia e le Università di Napoli e Genova analizzano i rischi dei cambiamenti climatici per le zone costiere urbane. Un approccio multisettoriale è l'unico che dia risposte concrete per la mitigazione degli impatti. Ha schiaffeggiato sabato sera in Piazza Libertà a Udine un uomo per rubargli la catenina d'oro. La capillare presenza delle pattuglie della polizia in zona ha permesso di trarre in arresto il rapinatore. La Guardia di Finanza di Trieste ha donato 23 tonnellate di pellet sequestrato per contraffazione al comune di Forni di Sopra. Alta adesione alla campagna vaccinale in regione, particolarmente elevati numeri di prenotazioni nelle farmacie. Presentata la nuova edizione del Trieste Science Fiction Film Festival, al via il 28 ottobre, tra gli ospiti il pluripremiato scrittore di fantascienza Ted Chiang e la regista Gabriele Mainetti, che presiederà la giuria del concorso. Buongiorno da Daniele Lettice e Nada Cioc. La sicurezza e la tutela legale dei volontari della protezione civile al centro della serata che ha concluso ieri gli stati generali della protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Un percorso iniziato nel maggio del 2024, articolato in oltre 50 sedute e 5 tavoli tematici. Sulla tutela di volontari e sindaci ora spetta allo Stato fare un passo decisivo. Si sono chiusi con un richiamo urgente all'attualità gli stati generali della protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Con il processo in corso per la morte del volontario di Preone Giuseppe De Paoli travolto da una ceppaia durante un intervento per liberare una strada nell'estate di 2 anni fa, l'assessore regionale Riccardo Riccardi ha ribadito l'urgenza di una modifica del decreto legislativo 81. Quello che equipara ancora il primo cittadino a un datore di lavoro e il volontario a un dipendente. Non è accettabile, ha detto, ricordando quanto fatto dalla Regione su coperture assicurative e legali e l'attesa per la proposta elaborata in conferenza delle Regioni. Governo e Parlamento completino al più presto questo percorso, l'auspicio condiviso. Senza la protezione civile, questo Paese non sarebbe lo stesso. Un sistema maturo, responsabile, che offre sicurezza e coesione sociale, quello diretto da Amedeo Aristei, che si è riunito a Udine al termine di un percorso di confronto lungo 1 anno e mezzo, una 50ina di riunioni con centinaia di volontari, 180 ore di lavoro su organizzazione, regolamento, formazione, sicurezza, antincendio boschivo. Non solo solidarietà, ma preparazione ad affrontare i momenti più critici per la sicurezza della popolazione. Un esercito professionale che deve però adesso pensare al ricambio generazionale in una società molto diversa da quella che lo vide nascere all'indomani del terremoto del Friuli e in cui i giovani sono sempre di meno. Il loro interesse va coltivato, l'impegno, a partire dalle scuole e da nuove modalità di reclutamento. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. Diamo un'occhiata al tempo. Il cielo è coperto su tutta la regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 15,5 gradi, a Gorizia 14,5, a Udine 13,5, a Pordenone 13, a Tolmezzo 11, a Tarvisio 10,5, a Forni di Sopra 8,5, a Piancavallo e Sappada 8, sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 5 gradi, sulla costa a Grado 14,5 gradi, a Lignano 14. Le previsioni dell'ARPA FVG nel pomeriggio e in serata: cielo ancora coperto con piogge moderate ad ovest e sulle Alpi, più abbondanti sulla fascia orientale, possibili anche temporali tra la costa, la bassa e l'Isontino. Sulla costa soffierà vento da sud moderato, domani ancora tempo umido con cielo da nuvoloso a coperto, qualche debole pioggia sparsa, possibili foschie specie di notte. I cambiamenti climatici comportano dei rischi specifici per le aree costiere, che sono spesso fortemente antropizzate. L'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, assieme alle Università di Napoli e di Genova, ha promosso 2 giornate di studio a Lignano per offrire un approccio multirischio nell'ambiente urbano. Divisi in gruppi intorno a un tavolo, le diverse anime della società civile simulano uno scenario di rischio. Una mareggiata sulla costa friulana colpita poche ore dopo anche da uno tsunami generato da un terremoto in Adriatico. Siamo a Lignano Sabbiadoro nell'ambito del progetto Return, finanziato dal PNRR. Si rafforza la ricerca locale e nazionale sulla risposta ai rischi che il cambiamento climatico ci porta ad affrontare. Antonella Peresan, sismologa dell'OGS. Le modellazioni che stiamo conducendo ci permetteranno di immaginare quello che può avvenire in futuro e quindi di pianificare, di pensare a misure preventive che tengano conto di questi scenari futuri e non solo dell'esperienza passata. Obiettivo: fare un salto di qualità a livello di politiche pubbliche e di sinergie. I piani di emergenza, per esempio, non sono ancora multirischio e lo stesso mondo della scienza è solito ragionare in modo analitico, spezzettando i fattori di criticità per approfondirli, invece che considerarli nell'insieme. Andrea Pirni, sociologo della politica all'Università di Genova. Per favorire anche una realizzazione di un approccio multirischio anche nei piani direttamente operativi nei diversi territori, facendo sì che non ci sia solo un rischio da considerare, ma composizioni di eventi diversi e pertanto impatti articolati e complessi. Il progetto coinvolge decine di partner, tra cui OGS, Ateneo di Genova, e in tutta Italia produrrà migliaia di pubblicazioni scientifiche, capofila l'Università di Napoli. Partecipano ai laboratori Protezione Civile, Polizia, Croce Rossa, scienziati e ricercatori che si occupano dell'interazione con la società civile, ma anche semplici cittadini, come Romano Zurco, che durante il terremoto del 76 si occupò a Lignano della gestione scolastica degli sfollati dalla provincia di Udine. Viene a completare il valore dell'evento nella sua profondità completa, aspetto umano, aspetto spirituale, aspetto materiale, quindi vedo che c'è una tendenza, se non altro, a migliorare. Lignano Sabbiadoro, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Trieste va incontro a una profonda rigenerazione urbana nel Porto Vecchio. Il Comune, nel redigere il piano regolatore, ha applicato le direttive del piano paesaggistico regionale con il contenimento del consumo di suolo e la promozione degli interventi di riqualificazione e servizio. Rigenerare il territorio senza consumare suolo e creando valore non solo economico, anche nelle operazioni in periferia. In un comune come Trieste, con grandi progetti immobiliari che trasformeranno parti intere della città, dal Porto Vecchio alla Fiera, dall'Ippodromo alla zona di Banne, in un convegno tecnico si è parlato di definizione e attuazione dei progetti. Ma qual è l'obiettivo dell'amministrazione comunale come ente regolatore in questi processi? Michele Babuder, assessore al territorio, Comune di Trieste. L'amministrazione deve e ha l'obbligo di creare delle linee, dei piani regolatori che mettano anche i privati nelle condizioni di agire, ma deve essere sempre tenuto presente ben chiaro quello che è l'investimento e l'interesse pubblico. L'interesse pubblico non è la sola riqualificazione, ma è la condivisione quotidiana di quegli spazi, la creazione di relazioni, quindi anche con una certa etica anche degli investitori. L'attenzione quindi deve essere sui percorsi che non si limitino al recupero fisico di parti di città, ma anche alla rivitalizzazione economica e sociale. Come trovare le risorse limitando al minimo la speculazione edilizia? Tommaso Del Bosco, presidente Associazione Aree Urbane Dismesse. Questa operazione si fa con l'utilizzo dei cosiddetti OICR, cioè gli organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi. Dei fondi all'interno dei quali sia l'amministrazione che i proprietari privati possono inserire tutti gli asset necessari a realizzare una data operazione. Fondamentale quindi la collaborazione tra pubblico e privato, un rapporto con regole che non siano nuove ma con presupposti precisi. Antonella Faggiani, ricercatrice in estimo ed economia territoriale. Il primo presupposto è quello delle competenze e di soggetti professionalizzati che siano in grado di affrontare grandi temi e temi innovativi. Il secondo tema ha a che fare con la disponibilità di soggetti che condividano grandi visioni con il soggetto pubblico. E il terzo grande tema, mettere sul campo le questioni di etica. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. A una settimana dall'avvio della campagna anti-influenzale sono moltissime le richieste di vaccinazioni. Nelle farmacie l'adesione alla campagna ha già superato del 40% le richieste dell'anno scorso. A 7 giorni dall'avvio della campagna vaccinale nelle 76 farmacie della regione iscritte a Federpharma, partite con le vaccinazioni anti-influenzali e anti-Covid, si registra già il 40% in più di somministrazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo il report dell'associazione, i vaccinati in farmacia contro l'influenza ad oggi sono 1.351 contro gli 881 del 24. E un po' a sorpresa rispetto alle attese, ci si continua a vaccinare anche contro il Covid. In 342 hanno fatto la doppia vaccinazione sinora. rispetto ai 221 registrati nella stessa settimana un anno fa, con un rapporto sempre 80-20%. Si conferma anche la fascia d'età di chi sceglie di vaccinarsi, prevalentemente gli over 65 anni, ai quali la doppia copertura vaccinale contro influenza e Covid è raccomandata e in entrambi i casi gratuita. Pochi invece i giovani. Stando poi alle agende delle farmacie, stanno andando bene anche le prenotazioni di sedute vaccinali da qui a fine ottobre, 1350 per l'antinfluenzale, circa 800 per il vaccino anti-Covid, sempre in crescita rispetto al 2024. Farmacie dei servizi sempre più protagoniste nella prevenzione, come veri e propri centri sanitari di prossimità, capaci di garantire accessibilità, continuità e fiducia nel rapporto coi cittadini, afferma il referente informatico di Federpharma, Claudio Pancino, dicendosi soddisfatto dell'andamento. In crescita rimarca anche il numero di farmacie abilitate a somministrare vaccini, 104 rispetto alle 98 di un anno fa, sul totale delle 400 attive in regione. Gorizia risulta l'area che sta vaccinando di più, con 29 vaccinati a farmacia al giorno, seguita da Udine e Trieste, rispettivamente a 25 e 22, più indietro Pordenone a quota 12. Pancino segnala anche l'alta percentuale di invii di vaccinandi dal CUP e dalle restanti farmacie che non somministrano vaccini. La vaccinazione antinfluenzale in farmacia, ricorda, è accessibile a tutti, quella invece contro il Covid solo in assenza di gravi patologie e non ai minori. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. I medici di medicina generale sono riuniti a Grado per un corso di aggiornamento in cui l'assessore Riccardi ha annunciato la prossima apertura di 6 case di comunità. Entro il 2025 apriranno le prime 6 case di comunità in Friuli Venezia Giulia, conferma l'obiettivo già annunciato in passato l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi a poco più di 2 mesi dalla fine dell'anno. Le case di comunità sono nuove strutture del servizio sanitario previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, strutture in cui operano squadre mediche multidisciplinari aperte 24 ore su 24. Tra gli obiettivi dichiarati, una migliore gestione delle cronicità e la riduzione degli accessi al pronto soccorso. Riccardi ha parlato al Palazzo Regionale dei Congressi di Grado di fronte a una platea di 600 dottori, medici di medicina generale, pediatri, specialisti ambulatoriali e rappresentanti degli ordini, tutti riuniti per l'evento formativo. Tra gli ostacoli da superare per l'apertura delle case di comunità c'è sin dall'inizio il reperimento del personale. Anche per questo l'accordo integrativo regionale recentemente chiuso con i sindacati dei medici di base prevede che essi possano lavorare fino a 10 ore in più a settimana proprio nell'ambito delle case di comunità. Tra i punti centrali dell'accordo ci sono le AFT, le aggregazioni funzionali territoriali tra medici, che servono a dare una risposta più appropriata alle esigenze della società odierna, dove l'età avanzata e le malattie croniche a essa correlata cambiano la prospettiva sanitaria e sociale rispetto al passato. Grado, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Presentato il bilancio sociale dell'INPS del Friuli Venezia Giulia, l'evento annuale ha l'obiettivo di informare i cittadini e i portatori di interesse sugli aspetti economico-sociali di maggiore interesse e rilevanza per il territorio e sui principali risultati conseguiti dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. L'anno 2024 evidenzia un andamento positivo dell'economia del Friuli Venezia Giulia, contribuiamo per il 2,14% al PIL nazionale, quindi in linea di coerenza con l'andamento demografico che siamo il 2,1% del totale nazionale. E il mercato occupazionale registra un incremento, un saldo positivo di 5.842 unità rispetto al 2023. Particolarmente rilevante anche il tasso dei NEET, che sono i giovani tra i 15 e i 29 anni che non cercano lavoro, che sono il 15% contro una media nazionale che è circa del 27%, quindi sostanzialmente un dato buono. I mercati che registrano un andamento più favorevole, i settori di mercato sono il trasporto, commercio e soprattutto il turismo. Dato, diciamo, di criticità è l'andamento demografico. Il totale dei decessi è superiore a quello delle nuove nascite, quindi siamo di meno in regione e soprattutto è aumentata la percentuale degli over 65. Quindi siamo di meno e siamo più vecchi. Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. L'intervista era al direttore regionale dell'INPS. E parliamo di politica. Anche il sindaco di Udine, Felice Dettoni, era ieri a Roma per partecipare alla presentazione del nuovo progetto politico, Progetto Civico Italia. Un grande progetto civico nazionale per arricchire il centro-sinistra guardando alle elezioni politiche del 2027. È nato ufficialmente a Roma davanti a più di 1000 persone, Progetto Civico Italia, su iniziativa dell'assessore capitolino Alessandro Onorato, al quale hanno già aderito più di 200 amministratori locali da Bolzano a Caltanissetta. Manca una forza politica civica, riformista, popolare, che dia spazio a tantissime esperienze in tutta Italia che già oggi amministrano i beni in situazioni complesse e possono arricchire il campo largo. Presto per parlare di programmi, ma fissati già alcuni obiettivi: il lavoro, la salute, la sicurezza, la scuola e la capacità di attrarre verso la politica i giovani che votano sempre meno. Tanti curiosi, ma anche tanti volti storici del centrosinistra. C'è uno spazio importante in un'area dove c'è già Italia Viva, c'è già Azione, ma sono realtà che fanno fatica a crescere. Io credo che fare una rete di reti dove possa convergere anche altre forze oggi esistenti è importante. Il servizio era di Francesca Cosentino della redazione di Roma e l'ultima voce che avete sentito era quella del sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni. Ora passiamo alla cronaca. La polizia di Udine nel fine settimana ha effettuato un'intensa attività di controllo del centro cittadino, identificando oltre 300 persone e controllando un centinaio di veicoli. La zona attenzionata in particolare è quella di Borgo Stazione. La presenza degli equipaggi sul territorio ha portato anche all'immediato arresto nella tarda serata di sabato di un cittadino marocchino di 29 anni, responsabile di rapina ai danni di un cittadino italiano. Quest'ultimo stava passeggiando assieme ad un amico in Piazza Libertà ed è stato avvicinato dal cittadino marocchino che, con la scusa di richiedere un'informazione, lo ha colpito con uno schiaffo alla nuca e lo ha derubato della collanina in oro che portava al collo. Una pattuglia è riuscita a fermare il colpevole e restituire la collanina al legittimo proprietario. Il rapinatore, già gravato da precedenti specifici, si trova in carcere in attesa della convalida degli arresti. I finanzieri del comando provinciale di Trieste hanno donato a favore della cittadinanza del comune di Forni di Sopra oltre 23.000 chili di pellet, oggetto di un sequestro eseguito nell'ambito di un'attività di contrasto alla contraffazione. Durante i controlli e i valichi contro l'importazione e la commercializzazione di prodotti contraffatti, i militari della compagnia di Muggia hanno intercettato alcune spedizioni di pellet legnoso partite dalla Bosnia e destinate al mercato italiano, che recavano il marchio di certificazione M+ contraffatto. Ospiti, operatori e familiari della cooperativa sociale Comunità di Rinascita stanno festeggiando nella sede della cooperativa a Tolmezzo la conclusione del progetto Rinascita in Fattoria, che ha coinvolto una trentina di persone con disabilità in oltre 40 laboratori nelle fattorie sociali e aziende agricole dell'Alto Friuli. Ce ne dice di più Mauro Cereghini della cooperativa Comunità di Rinascita. Il progetto Rinascita in Fattoria ha portato una trentina di persone con disabilità ospiti della cooperativa Comunità di Rinascita del centro diurno o del soggiorno del centro residenziale a fare delle esperienze in fattorie sociali, in aziende agricole dell'Alto Friuli. L'abbiamo fatto un po' come esperienza per vedere in un contesto diverso, in mezzo alla natura, con gli animali, con attività vicine all'agricoltura, come si stava, come poteva migliorare il benessere, quali abilità potevano riattivare l'incontro con la terra. E ci ha sorpreso, perché è stato anche più attivante, più motivante per le persone coinvolte di quello che ci aspettassi. Quindi ci sono stati dei laboratori che hanno coinvolto in tutto quante persone? Ci sono stati una quarantina di laboratori che abbiamo fatto insieme a 9 fattorie sociali o anche aziende agricole, un maneggio, un'apicoltura, così realtà diverse. Hanno coinvolto una trentina di persone adulte con disabilità diverse, medie o anche importanti, sia fisiche sia cognitive, e poi abbiamo avuto anche un gruppetto di 5 bambini che con degli operatori apposta hanno lavorato, hanno fatto anche loro alcuni laboratori, che erano delle mezze giornate, delle mattinate o dei pomeriggi di attività in fattoria con delle esperte, perché quasi tutte erano imprenditrici al femminili, che sono le titolari delle diverse aziende che ci hanno ospitato. L'artista pordenonese Fabio Scaramucci, fondatore di Orto Teatro, ha ricevuto il premio nazionale Ribalte di Fantasia, riconoscimento dedicato al teatro di figura per i suoi itinerari artistici tra storie e copioni popolari. Fabio Scaramucci è riconosciuto a livello nazionale per il suo lavoro di riscoperta delle fiabe, leggende e storie popolari che porta in scena unendo racconto orale, musica, canto e memoria collettiva. Il premio è stato consegnato a Scaramucci da Gianpaolo Borghi, studioso di etnostoria, etnoantropologia e spettacolo popolare, referente scientifico dell'Archivio Nazionale Giovanna Daffini. È stata presentata questa mattina a Trieste l'edizione 2025 del Science Fiction Film Festival, la rassegna dedicata al film di fantascienza che festeggia il suo primo quarto di secolo. Il direttore organizzativo Francesco Ruzier ci racconta alcuni degli appuntamenti del cartellone di quest'anno. Edizione molto importante perché si tratta di quella del 25esimo anniversario, quindi insomma abbiamo voluto festeggiare in grande questo traguardo. Il festival quest'anno sarà in programma dal 28 ottobre al 2 novembre. Come sempre le proiezioni si terranno tra il Politeama Rossetti e il Teatro Miela, e invece gli eventi collaterali, che quest'anno sono veramente moltissimi, saranno principalmente allo Sci-Fi Dome, che è la cupola fantascientifica che allestiremo apposta per il festival in Piazza della Borsa, e alla Sala Xenia. È un programma davvero ricchissimo, con oltre 50 anteprime cinematografiche e un totale veramente di 100 appuntamenti adatti un po' a tutti i gusti. Se dovessi indicare solo due o tre appuntamenti davvero imperdibili, sia tra le proiezioni sia tra gli eventi collaterali? Sicuramente mi piace segnalare la presenza al festival di Ted Chiang, che è uno dei più importanti scrittori di fantascienza al mondo. Lui è americano e ha scritto due raccolte di racconti che sono subito entrati un po' nella storia della letteratura di fantascienza. Sarà appunto per la prima volta in Italia e avrà tre appuntamenti, insomma, che lo coinvolgeranno. Poi ci sarà anche come presidente di giuria Gabriele Mainetti, regista, lo chiamavano Gigro Body, Freaks Out della città proibita. Anche lui, oltre appunto a avere il proprio ruolo da presidente di giuria, farà tutta una serie di appuntamenti in cui incontrerà il pubblico, tra cui introdurrà due dei suoi film preferiti del genere, due cult assoluti come La Mosca di David Cronenberg e District 9 di Neil Blomkamp. Un altro appuntamento culturale che caratterizza l'autunno del Friuli Venezia Giulia è il concorso musicale Città di Porcia. Si tratta di uno dei più importanti contest internazionali dedicati agli ottoni, che richiamerà a Porcia dal 2 all'8 novembre oltre 50 partecipanti, tra cui anche diversi giovanissimi. Sentiamo il direttore artistico Gianpaolo Doro. 35esima edizione di un concorso che è sempre più internazionale. Sì, sicuramente sì, lo dimostrano anche i dati della provenienza dei giovani candidati. Abbiamo 52 candidati da 20 paesi e da sottolineare che negli ultimi anni sono cresciuti di molto i concorrenti che vengono dalla Cina. Quest'anno per l'edizione del CON ne abbiamo 12 e tra questi c'è un ragazzino di 14 anni che viene a questo nostro concorso. Anche la presenza italiana quest'anno è molto molto molto buona, sono 11 candidati italiani. E quest'anno ci sono anche alcune nuove collaborazioni come novità? Sì, quest'anno ci sono delle nuove collaborazioni, per esempio abbiamo la collaborazione con Roma 3 Orchestra e l'associazione Rime Mute di Udine, che offrono al vincitore ben 4 concerti, 3 sono nella nostra regione, il 16, il 17 e il 18 di gennaio, un po' presto, però questa era l'occasione da prendere. Uno di questi tre lo facciamo a Porcia il 17 di gennaio e il 4 di febbraio a Roma. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il calcio 1-1 per l'Udinese a Cremona sul campo della Cremonese, che è stato il gol di Zaniolo a salvare i friulani. Un punto ed è abbastanza per l'Udinese, che alla fine rischia di tornare da Cremona con una sconfitta. Rugnaic affida Zaniolo e Baiò il peso dell'attacco, ma dopo 4 minuti i friulani sono già sotto di un gol. Lo segna Terracciano di testa, dando il primo dispiacere stagionale ad Okoye al rientro dalla squalifica. Dopo la mezz'ora cremonese di nuovo pericolosa con Bonazzoli che colpisce la traversa. L'Udinese entra in partita soltanto nella ripresa, al sesto, grazie alla rete di testa di Zaniolo. Sono più sollevato rispetto tutta la scorsa settimana perché avevo sbagliato un gol incredibile col Cagliari, quindi mi sentivo anche un po' in dovere di ripagare la fiducia che mi ha dato il mister e sono contento di avergliela restituita. Friulani che cercano di creare altri pericoli, ma è la squadra di Nicola, l'ex, che mette paura ai tifosi bianconeri presenti allo stadio Zini. Vardi spreca davanti ad Okoye e a 10 minuti dalla fine un altro palo salva il portiere dell'Udinese. Lo colpisce Vasquez su punizione. Nel recupero ancora brividi giallorossi con Vardi che si vede deviare il tiro da Cabasele. Alla fine pareggio che porta la squadra di Rugnaic a quota 9 in classifica, lontano dal pericolo ma senza vittorie ormai da 4 turni, e sabato prossimo un altro scontro diretto per l'Udinese in casa con il Lecce. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Questo è tutto per il giornale radio che è stato redatto e condotto da Daniele Letti, Genada Cioc, con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano e Mauro Ceccarelli. Ha collaborato in redazione Zeno Dubanda. A tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.